La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Note di Rider on the Wall di Sam Smith per aprire questa puntata della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, eccoci al nostro appuntamento del sabato con il cinema qui su Radio 24. Abbiamo dato l'omaggio, l'onore dell'apertura alla canzone portante della colonna sonora del nuovo episodio della saga di James Bond. Siamo a parlare di Spectre, che pervaderà in maniera abbastanza intensa la nostra trasmissione oggi, perché è decisamente l'evento cinematografico di questo weekend e poi forse più in generale anche di questo periodo della stagione. Spectre, il titolo appunto di questo film, quarto di quelli in cui la figura di James Bond è incarnata da Daniel Craig, un film che ha dentro anche un pezzettino d'Italia, e di questo parleremo, di questo e di tanto altro. Sentiremo le voci alla prima, le voci dei bondiani di ferro, insomma di quelli che sono duri e puri e non mollano un centimetro rispetto alla qualità richiesta per questi film. Sentiremo anche alcuni dei protagonisti di questa pellicola. Per parlare qui con me c'è il bondiano dei bondiani, Ilario Citton, che saluto. Ciao Ilario. Ciao Franco, ciao a tutti gli appassionati di James Bond italiani. E allora, Ilario è uno degli appassionati, anzi è il capo degli appassionati del Le Cercle, che è il club, insomma, dei bondiani d'Italia, uno che di James Bond conosce tutto, forse anche più di James Bond, secondo me. Se vai a vedere, secondo me, bene bene, può darsi che tu sai qualcosa di più di lui. E allora, l'abbiamo voluto qui in studio perché questo è un film da commentare e da raccontare, per inquadrarlo, perché è un film di trasformazione, probabilmente, che continua quantomeno una trasformazione di James Bond, se vogliamo, da una parte con, non dico che manca solo il mantello, ma insomma con una cornice da supereroe che sta un po' sempre più venendo fuori, forse per avvicinare anche un pubblico che, quando io e te non avevamo i capelli bianchi, io nella fattispecie ce li avevo addirittura, non era ancora nato. Sì, sì, sì, sono d'accordo con te, e difatti dai primi commenti che si leggono sui social network, Spectre sta piacendo moltissimo ai giovanissimi, al pubblico giovane. Effettivamente, beh, Daniel Craig, insomma, da Casino Royale ad oggi ha cambiato anche pelle di film in film. Diciamo che Spectre, per chi ancora deve andarlo ancora a vedere, è un film che si è collegato a Skyfall, a Quantum e a Casino Royale, però offre molti spunti interessanti. Allora, lui, adesso andiamo a parlare di questi spunti, ma cominciamo con il racconto del film, che comincia a Città del Messico. Lei non aveva alcuna autorità. Nessuna. Città del Messico. Che cosa ci faceva lì? Avevo delle ferie arretrate. Che cosa succede, James? Dicono che sei finito. Tu che ne pensi? Secondo me hai appena cominciato. E allora, Città del Messico, l'inizio di tutto, una Dolly che scende chissà da dove, sembra dal cielo, e si incanala dentro una festa che è la festa dei morti, lì a Città del Messico, una ripresa straordinaria davvero per questo inizio mozzafiato del film, e James Bond che invece scappa, individua il suo target e lo annienta con un'esplosione mica da ridere. Aveva ferie arretrate, ha detto, però non è solo quello. A questo punto scappa in una direzione ben precisa, che è quella dell'Italia, quella di Roma, dove sta succedendo qualcosa, cioè stanno cambiando degli equilibri all'interno della Spectre, all'interno di questa società segreta che ha sempre giocato il ruolo del cattivo, diciamo così, rispetto alle ambizioni di James Bond, ma sta lottando anche contro la storia stessa dei servizi segreti di Sua Maestà, perché quello che sta succedendo è che c'è una sorta di istituzionalizzazione, modernizzazione, insomma i metodi di James Bond non vanno più tanto bene secondo i tecnocrati del governo inglese, e chiaramente a questo punto bisogna un po' arrangiarsi, cioè andare un po' nell'anonimato, andare un po' nella clandestinità e continuare la propria battaglia da solo contro questa Spectre che sembra sempre più minacciosa. Questa organizzazione, sai come si chiama? Si chiama Spectre. E sai chi è che li collega tutti? Io. Benvenuto, James. Mi hai incrociato moltissime volte senza mai vedermi. Perché ci hai messo tanto? L'incontro con il capo, questo Christoph Waltz molto particolare che riveste il ruolo, adesso non vogliamo anticiparvi molto, non vogliamo spoilerare come si dice, però riveste un ruolo che sarà molto vicino, diciamo così, molto prossimo a quello di James Bond, che in questa impresa nel raggiungere questo personaggio, nel cercare di farne saltare per aria letteralmente le mire, è aiutato da una ragazza, una Lea Seydoux molto, molto seducente ma anche molto dura, che rincorre, cerca letteralmente attraverso le Alpi, attraverso l'Austria. Insomma, è un film, è quasi un road movie in un certo senso, questo di James Bond, prima di arrivare all'epilogo. È davvero questo che vuoi? Vivere nell'ombra, andare a caccia, essere cacciato, sempre da solo? Non mi fermo a pensarci. Non mi fermo a pensarci, dice Daniel Craig. James Bond non può pensarci. In questo film è vissuto come un personaggio borderline fra il dentro e il fuori, non dico fra la legalità e l'illegalità, perché lui è sempre stato in una zona d'ombra, però in questo caso la zona d'ombra si sta quasi aprendo sotto i suoi piedi, e questo è un po' il tema anche di questo film. Ne parleremo fra poco, dopo la viabilità, con un primo commento insieme al nostro ospite, Ilario Citton. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Rosa Purpurea. Straordinaria interpretazione, arrangiamento tutto per tamburi, è proprio quello che accompagna la scena iniziale a Città del Messico di cui vi parlavamo prima. Parliamo di Spectre qui alla Rosa Purpurea, ne parliamo con un ospite, Ilario Citton. Abbiamo raccontato cosa succede in questo film, per sommi capi, per non togliervi il gusto di vederlo, come hanno già fatto molti, molti nostri ascoltatori. Ilario, allora, da bondiano sì. Esigente, dove collochi questo film, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto, in sintesi? Ma ritengo che Spectre sia un buon film. Non posso dare a Spectre un voto, un 8, do un 7. Tutta la prima parte, quindi dal Messico, passando per Roma, Austria, è ottima, a ritmo, i dialoghi sono centrati, giusti. Quello che mi piace di meno è il momento, quello clou, tra l'incontro tra Bond e Oberhauser. Mi aspettavo, diciamo, più brillantezza nelle battute, ecco. Anche perché, tenendo conto che Waltz, comunque essendo un grande attore ma è anche un grande caratterista, all'interno della base mi aspettavo un incontro alla vecchia maniera, ti ricordi i film con Sean Connery, quindi l'ironia, queste battute fini, un continuo scambio di diciamo che la produzione ha deciso di risolvere molto velocemente quella parte lì, optando di più per l'aspetto romantico. Aspetto romantico in cui il regista Sam Mendes è abbastanza specializzato. Ricordiamo che lo stesso regista di Skyfall è un regista che, come dire, ha proprio un modo di riprendere molto ampio, molto largo, molto di cuore, no? In questo senso. Forse magari un po' meno a suo agio nelle scene d'azione. E devo dire che questo aspetto che tu racconti, cioè l'incontro fra James Bond e la sua nemesi, se vogliamo, che è appunto Christoph Waltz, è un po'... giocato in maniera un po' frettolosa, forse, cioè funziona quasi di più, Ilario, il primo incontro a Roma in questa sorta di momento di setta segreta con Christoph Waltz nella penombra, che non quello plateale, quello dove doveva tutto culminare in mezzo alla fredda estetica di questo bunker super tecnologico. Sì, perché ritengo che la scena della villa di Roma e l'ingresso nelle ombre, quindi con la luce, il Waltz che non si vede, mi ricordo in anteprima a Roma, mi ha proprio tenuto sulla corda, come deve essere un film di Bond. Esatto. Però l'ingresso, l'arrivo alla base, io mi ricordo Dottor No, perché l'abito della Seydoux ricorda Dottor No, quindi il fatto che vengano accolti Bond e la Bond Girl all'interno della base, messi nelle rispettive stanze, è come Dottor No. Mi aspettavo proprio un seguito, proprio di un incontro, una cena, uno scambio di battute però brillante, che non c'è stato. Fra i personaggi, devo dire, positivi, secondo me, Ben Whishaw e Naomi Harris, sì, che fanno Q, e Moneypenny, molto azzeccati. C'è proprio un bel rapporto con James Bond, molto ironico e anche quasi in un certo senso con Q, da padre figlio, se vogliamo, in un certo senso, no? Un po' meno, vabbè, quello della Bellucci è un cameo trascurabile oggettivamente, sì, sono d'accordo, stare, sì, non stare, sì, e tra l'altro in un momento iniziale del film nel quale finisce, sì, subito, e non c'è molto molto altro. Dicevo, forse un po' più fredda la prestazione di Lea Seydoux, che è molto bella ma non riesce a graffiare al di fuori dello schermo. Allora, Lea Seydoux è una bravissima attrice, è una grande professionista, però se pensiamo a Eva Green... Alle Bond Girl, esatto. Ma io penso sempre a Eva Green, c'è poco da fare, alla sensualità, perché la Bond Girl non deve solo essere bella, deve proprio esprimere, deve bucare lo schermo, come fa Bond, come l'attore, come Daniel Craig. Faceva Ursula Andress quando, esatto, usciva dalle acque. Esatto, diciamo che è un po' freddina, diciamo che rimane... ma la Seydoux, ce la ricordiamo anche in Mission Impossible, no? E la vediamo più anche come attrice d'azione, se vogliamo, che anche un po' d'azione la fa in Spectre. Certo, assolutamente. Ecco, beh, io soprattutto in treno. Però se devo fare esatto, in treno lì che si la vediamo in azione. Ma però ripeto, la sensualità che manca e che in Eva Green c'è all'ennesima potenza. Assolutamente. Ecco, dicevamo prima, per chiudere la carrellata dei personaggi, James Bond, Daniel Craig, quarto film per lui. Lui, adesso poi ti chiederò anche, sì, cosa ne pensi rispetto, sì, agli altri James Bond del passato, no? Io personalmente, per esempio, trovo che lui sia un po' troppo grezzo è un bravissimo attore, ma la personalità che esprime davanti allo schermo ha un po' poca classe rispetto a quella che mi aspetterei da James Bond. Questo in generale. Poi dopo è un attore straordinario e fa quello che deve fare in maniera molto fisica. E poi, come dicevo prima, gli hanno anche cucito addosso quasi il mantello del supereroe, cioè ormai lui spara, prende tutti, quasi si pettina anche, esatto. Cioè, ecco, va bene che è James Bond, però forse qualche graffietto qua e là si poteva anche dare. Difatti, Casino Royale sanguina, giusto? Abbiamo osannato il Bond umano, o quasi il Bond dei romanzi di Ian Fleming, e in Spectre non sanguina, quando esce spara, non ha una ferita, è perfetto, forse ricorda un po' Roger Moore, che sparava ed era sempre pettinato perfettamente. Ecco, beh, ecco, riguardo invece a, sì, a lui nella storia, lui, dei Bond, come, allora, lo vedi? Beh, lui sicuramente è tra i migliori, dai, c'è poco da fare. Sean Connery continua ad essere il preferito dei fan. Però lui è riuscito a entrare nei cuori dei fan di Bond. Come dicevi tu, però, Daniel Craig purtroppo non ha quell'eleganza innata che aveva Brosnan, il portamento proprio innato. È, sì, è molto macio, molto grezzo, però piace moltissimo. Forse anche più adatto ai nostri tempi. E si adatta perfettamente ai tempi di oggi, al cinema di oggi. Certo. Ecco, a proposito di cinema di oggi, va detto che questo è un tentativo di fare comunque, questo a me è piaciuto molto, un film col grande respiro. Certo, dice James Bond, mancherebbe altro. Però, sai, i soldi si possono usare bene, si possono anche buttare via tante, sì, volte. Sono, ma qui invece, a livello almeno di scenografie, di idea di cinema, di comparse, di grandi orizzonti, di questa sorta di transiberiana che invece è una transdesertica, diciamo così, di questa scena iniziale, sì, a Città del Messico. Ecco, ci sono tanti momenti in cui i soldi si vedono tutti, il cinema c'è, forse mancano un po' le bondate, cioè sì, a parte qualche piccolo escamotage sul finale che non riveliamo, no, però perché... ecco, a livello proprio di meccanismi alla James Bond, di trucchetti, di piccole, lì forse siamo un po'... Ma sai dove ci potevano essere le bondate, come dici tu? Quando c'è a Roma, nell'inseguimento, dove lui tenta di azionare i gadget dell'Aston, esatto, Martin, e non funzionano e inizia un po' a imprecare. Forse lì, ecco, in tutto il ciclo Craig effettivamente manca un po' quella ironia che in Spectre certo ritroviamo nel rapporto con Q, con Moneypenny, però nelle scene d'azione dove Bond effettivamente usciva fuori proprio, no? Con la trovata, con la battuta esilarante, ecco... purtroppo i produttori anche qui e gli sceneggiatori si sono stati un pochino troppi, un po' troppo stretti di manica, ecco. Assolutamente, comunque sì. Quell'inseguimento sì. Sulle sponde, stupendo, del Tevere, con una sorta di parabolica, le sponde che fanno da parabolica. Bellissimo. È una cosa incredibile davvero, e anche devo dire, ecco, voglio sottolineare una cosa, l'audio di questo film, ora magari è una mia deformazione perché facendo radio, ma è una roba veramente incredibile, andatelo a vedere, lo troverete chiaramente in quel tipo di cinema, questo è un film da vedere in un grande cinema, magari in un multiplex super attrezzato con un audio di altissimo livello, perché è veramente a livello di ingegneria dell'audio una cosa stupefacente. Ma lo si capisce subito dalla scena del Messico, dalla musica che tu hai messo, che abbiamo sentito, e proprio il suono che è imponente. Thomas Newman ha questo stile proprio incalzante che l'abbiamo sentito anche in Skyfall, e lo ripropone forse in maniera anche ancora più forte in Spectre, e quindi sì, si gode bene a livello audio e anche a livello di fotografia, perché Van Hoytema ha fatto un lavoro eccezionale. Assolutamente. Allora, noi prendiamoci una piccola pausa, poi fra poco sentiamo i protagonisti, sentiamo le reazioni all'anteprima di Roma, c'è tanta roba da sentire, però prima dobbiamo giocare, e se giochiamo oggi con la puntata speciale di 007, giochiamo con 007, però dovete indovinare quali dei tantissimi, quanti film siamo arrivati con 007? 24 film. 24, giusto. Quali dei 24 film sono questi tre che vi raccontiamo? Rilancio. Rilancia, 12 milioni. Uno contro uno. 40 milioni 500 mila, tutto il resto. Rilancia. Solo un bastardo senza cuore non vendica la morte della persona che amava. Non credo che ai morti interessi la vendetta. Se tu volessi, potresti scegliere le tue missioni segrete. Basta puntare e fare click. Beh, tutti hanno bisogno di un hobby. E il tuo qual è? La resurrezione. E allora, dovete indovinare tutti e tre i film, mi raccomando, erano tre, allora fra poco ve li facciamo risentire comunque, però se li avete già indovinati scriveteci il titolo dei tre film nell'ordine in cui si susseguono e il vostro indirizzo privato alla rosapurpure@radio24.it per provare a vincere uno dei due cofanetti Blu-ray di questi film che sono lì che vi aspettano, però prima indovinateli. Andiamo avanti però nel raccontare le reazioni per questo film, l'anteprima, la grande anteprima nazionale che si è svolta a Roma, tra qualche problemino di tipo organizzativo che ci raccontava Ilario, però insomma grande entusiasmo, grande attesa soprattutto da parte dei fan di James Bond. E allora noi cominciamo ad andare a sentire le reazioni che proprio il nostro Ilario Citton ha raccolto lì a Roma fra quelli del club, insomma, degli adepti di James Bond. Ok, di Spectre mi è piaciuto in assoluto le citazioni che sono state fatte, che richiamano molto ai film anni 60 e anni 70 della serie, quindi un ritorno al passato e alle origini, però guardando anche il nuovo. E mentre invece mi è piaciuto di meno la sceneggiatura, che forse in alcuni punti era un po' carente e perdeva di tono, non era come il Casino Royale. Di Spectre mi è piaciuto diciamo la parte che riguarda il nuovo Bond, che è un nuovo Bond però che ritorna al passato, quindi un po' di ironia in più in Daniel Craig, una figura meno cinica. Quello che mi è piaciuto di meno invece è la trama, che la trovo disconnessa, non la trovo ben collegata. Allora, di Spectre mi è piaciuta l'interpretazione dei personaggi, tutti bravissimi secondo me, azzeccati. Mi è piaciuto, torno a dire quello che hanno detto loro, la trama in alcuni punti, ma non l'ho capita, fa un po' acqua. Di Spectre mi sono piaciute molto le scene di azione in vecchio stile bondiano, la Bond Girl e la Seydoux. Mi è piaciuta un po' di meno la sottoutilizzazione di Waltz, che poteva essere un cattivo un po' più mordente. E allora, queste le reazioni, Ilario, molta cioè molto esigenti, però anche c'è questo punto della sceneggiatura, se vogliamo, della trama che fa un po' acqua, che è un po' quello che dicevamo noi prima, sì, soprattutto sì. Nella seconda parte si slabra un pochino il racconto, sì, ma non perché, insomma, voglio tornare a ripetere che Spectre è comunque complessivamente un buon film. Allora, il problema è che quello che non si è capito è che doveva essere John Logan lo sceneggiatore, dopodiché sono subentrati Robert Wade e Neil Purvis, che sono gli storici sceneggiatori richiamati perché lo script non funzionava a seconda, perché i produttori non erano contenti. Se ne è aggiunto un quarto, che è Jeff Butterworth, che è uno sceneggiatore inglese, e devo dire che non sempre vediamo questi grandi film con grandi budget e dici, ma caspita, quattro sceneggiatori, dovrebbe essere un grande film, un grandissimo film. Ecco, sì, purtroppo Spectre fa acqua nella seconda parte, secondo me. Proprio cala proprio a livello di brillantezza di sceneggiatura. Probabilmente, sai, dopo la grande attesa, il grande successo che c'era stato con Skyfall e la grande attesa che si era creata con Spectre, i produttori hanno pensato di buttare dentro tante tante cose. Certo, e tu pensa che io quando vedo invece quattro nomi in sceneggiatura diffido, perché secondo me a otto mani si fanno di solito dei pasticci, ma comunque sono d'accordo con la premessa tua, questo rimane un film grande, un film grande, è un film che vi riconcilia con un certo tipo di cinema, insomma, veramente da grande schermo. Ricordo che è partito benissimo, primo giorno di programmazione quasi 700.000 euro, primo in classifica di lunghezze inenarrabili rispetto agli altri film. Adesso vedremo il risultato del weekend e poi settimana prossima tireremo le somme. Diamo la linea alla regia, fra poco torniamo e sentiamo al telefono Alessandro Cremona, che è uno degli attori italiani che hanno lavorato anche in maniera abbastanza dura, perché si è fatto sparare addosso da Daniel Craig nella scena iniziale. Alessandro Cremona fra poco alla Rosa Purpurea. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo della prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Stiamo per chiudere quello che riguarda la parentesi ampia, che riguarda, come giusto, Spectre, il ritorno di James Bond al cinema. Però vi abbiamo promesso che abbiamo al telefono uno dei protagonisti italiani, non solo della parte italiana, anche della parte messicana, ma uno dei protagonisti italiani del film, Alessandro Cremona, che è in collegamento con noi. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, l'ultima volta che ti ho visto al cinema cadevi da un elicottero calciato da James Bond. Esatto, sì, cadevo da quell'elicottero e inizialmente il destino mio era essere tranciato completamente dalle pale dall'elicottero. Ah, ecco, poi si sa. Ti è andata meglio, se vogliamo, no? Ma chissà, magari rimbalzo da qualche parte e riciccio fuori. Senti, raccontaci un po', scherzi a parte, com'è andata un po' questa cosa. Intanto voglio sapere che faccia hai fatto quando ti hanno chiamato e ti hanno detto: senta, lei è nel progetto di Spectre. Questo è stato un momento dilatato nel tempo, perché fino all'ultimo per me non era molto chiaro cosa andava a fare, perché in realtà in Italia cercavano due personaggi, che erano la guardia del corpo di Monica Bellucci e il personaggio che interpreta Peppe Lanzetta. La mia è stata un'avventura, un film nel film, perché Mendes, quando mi ha fatto il provino per uno di questi due ruoli, ha cambiato idea e ha deciso di farmi interpretare Marco Sciarra. E quindi è stata un'avventura molto, molto misteriosa all'inizio, perché non sapevo cosa andavo a fare, le sceneggiature non ce n'erano, informazioni ce n'erano poche, e piano piano, quando ho incontrato finalmente dopo 5-6 provini Sam Mendes in Austria, mi sono reso conto di essere entrato a far parte di questo progetto e di avere una buona responsabilità recitando nella sequenza iniziale. Ecco, sequenza iniziale che, come dicevamo prima, è una delle cose più belle del film, nella quale tu entri subito nel mirino di James Bond, che prima cerca di annientarti con una sorta di colpo di bazooka, che non è bazooka, ma insomma, verso una finestra nella quale siete radunati, e poi tutto si trasferisce ancora a Roma. Com'è stato il rapporto con Daniel Craig, per quel poco che hai potuto in questi giorni di lavorazione stare con lui proprio a contatto? Beh, è stato una relazione interessante in quel momento, perché eravamo nemici sul set e quindi cercavamo spontaneamente e naturalmente di non incontrarci, di non parlarci più di tanto e di mantenere quella distanza dal personaggio con cui devi competere. Questo accade molto spesso sui set, attori che devono che sono contrapposti in scena, anche nelle quinte, nei camerini, si evitano o cercano sempre di scrutarsi da lontano, così poi sul set qualcosa di reale può accadere. Poi in realtà ci siamo ritrovati avvinghiati dentro un elicottero piccolissimo, quindi siamo entrati subito in confidenza, ci siamo divertiti. È una bella persona, molto forte. Fino al momento in cui ti ha calciato fuori dall'elicottero. Invece ti volevo chiedere un'altra cosa, perché è veramente una grande curiosità, quante controfigure lavorano a un film come questo di James Bond? Allora, tutti gli attori hanno delle controfigure, di regola, poi l'assicurazione copre fino a un certo punto. Per quanto mi riguarda, visto che ero in grado di fare tutte le scene e man mano che le facevamo, l'assicurazione copriva sempre di più, quindi sono riuscito a fare direi il 95% di tutto quello che si vede nella sequenza iniziale. Tranne il volo dall'elicottero, ovviamente. Il volo esterno e l'elicottero, quelle sono le nostre due controfigure, perché quello proprio l'assicurazione non copre questo rischio enorme. Infatti complimenti, perché sono dei ragazzi fantastici. Daniel ne aveva quattro di controfigure: una per il combattimento, una per la corsa, uno per le scene più pericolose. Devo dire, dei ragazzi splendidi, fortissimi e molto disponibili ad aiutare gli attori a fare cose complicate come queste, che sono anche pericolose, direi. E allora ringraziamo Alessandro Cremola, che potete vedere al cinema in Spectre, avversario di James Bond. Grazie per essere stato alla Rosa Purpurea. Grazie a tutti voi e grazie Ilario. Buona ciao, giornata. Ciao Alessandro, ciao. Sì, abbiamo tenuto qua dormiente, però c'era Ilario. Ciao, grazie davvero. Allora, adesso giochiamo insieme per la seconda volta col nostro game di questa settimana dedicato a James Bond. Indovinate questi tre film. Io sono il capitano. Fino all'ultimo centesimo. Vesper. Spero abbia castigato i suoi genitori per questo. Quando non si distingue tra amici e nemici, è ora di ritirarsi. Non deve preoccuparsi per me. Vorrei cominciare con alcune semplici associazioni di parole. Cuore. Bersaglio. M. Stronza. Nazione. Inghilterra. E allora, se avete indovinato i tre film che vi abbiamo proposto, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, in fila, in ordine, così come li avete recepiti, con il vostro indirizzo di posta, per provare a vincere e ricevere uno dei due cofanetti Blu-ray che sono lì che vi aspettano e che sveleremo la prossima settimana. E allora io saluto Ilario Citton, che è stato qua con noi. È stato un grande piacere, Ilario, averti qui per aiutarci a destreggiarci dentro le fila di questo film, di questo Spectre, ma anche di questo fenomeno che continua a essere James Bond. Grazie davvero. Grazie Franco. Un'ultima cosa che voglio così dire ai nostri ascoltatori, che anche l'ottimo lavoro di Francesco Prando di doppiaggio su Daniel Craig, perché insomma i nostri doppiatori sappiamo che sono sempre bravissimi, e anche così un ricordo anche del film, anche la piccola scena che ha fatto Peppe Lanzetta, che è molto significativa. Ah, guarda, io aggiungo un'altra cosa. ai nostri ascoltatori che fossero bondiani dentro, sì. Come possono fare a mettersi in contatto con voi e con Le Cercle? Sì, e il nostro blog è lecercleclub.com, lì c'è tutto, ci siamo tutte le informazioni sul mondo di Bond, ma anche i nostri podcast, la rassegna stampa, la possibilità di iscriversi al club, quindi un blog che è aggiornatissimo. E allora, che se volete rimanere tutto l'anno bondiani, non solo dentro ma anche fuori, Ilario Citton vi aspetta alle Cercle. Grazie ancora Ilario. Grazie Franco. Allora, noi abbiamo poco tempo, molti film, chiaramente la condizione nella quale ci muoviamo abitualmente, però Boris Sollazzo è già in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno. Ecco, sei bondiano un po' dentro anche tu o no? Beh, parecchio, devo dire che ho sempre subito il fascino dell'agente segreto, volendo sempre essere lui e inviandone l'abilità in tutto sostanzialmente, in particolare con le donne. Ecco, lo sapevo che finivi lì. Perfetto, bravo, bravo Boris, risposta esatta, anch'io la penso un po' come te, e proprio per questo parliamo di Snoopy. Eh no, sembra detta così, però effettivamente arriva nelle sale ed è un film molto molto atteso, perché Snoopy, Charlie Brown, Schultz, i Peanuts sono comunque una categoria dell'anima più che dei personaggi, che hanno scosso, sconvolto il mondo del fumetto, delle strisce fra gli anni 60 e 70, ma che sono arrivati fino a noi e adesso cercano nuova vita al cinema con una animazione tridimensionale alla Pixar. Stavolta le cose andranno diversamente. C'è la ragazzina nuova. Wow, è bella. Non è così bella. Mi ha guardato. Non ci credo, parlerò con la ragazzina nuova. Mi trasformerò e diventerò un vincente. Snoopy, che farei senza un buon amico come te? Un cane ti ama per quello che sei. È bello quando qualcuno ti ascolta. E allora, Snoopy and Friends al cinema, Boris, l'operazione appunto era quella di arrivare a noi parlando al pubblico di oggi, mi sembra che ci sia anche il tentativo di coinvolgere il pubblico più giovane, più piccolo dentro questa storia. Allora, il film cerca di portare Snoopy a chi lo ha amato già e che magari oggi ha un'età un po' più avanzata o chi lo potrebbe amare ex novo a partire da oggi? Entrambi, molto il merito di Schultz, diciamo che volendo continuare la battuta di prima, volevo essere James Bond e in verità sono Charlie Brown, sono sempre stato Charlie Brown, e questo è forse il segreto grande dei Peanuts, che qui trovano la loro realizzazione cinematografica migliore. Non è il primo film a loro dedicato, è il film che forse li rispecchia meglio e allo stesso tempo li rende più moderni. Ripeto, il merito è molto è di Schultz. Charlie Brown è un'icona eterna, il bambino goffo, il bambino con grandi sogni, anche un cane con grandi sogni, la verità qua, anzi sono le fasi oniriche del cane che sono più presenti di quelle del bambino, è un sempreverde, è qualcosa che fa parte di noi, sono come le sigle dei cartoni animati, sono una sorta di Madeleine che non se ne va mai. Allo stesso tempo quel CGI che poteva in qualche modo far paura a molti dei nostalgici è che invece è trattato in maniera perfetta, perché rende i disegni più freschi, ma allo stesso tempo l'idea di disegnare sopra quella grafica con i tratti schulziani fa sì che venga ripercorsa quella staticità delle strisce che l'hanno reso famoso. E tu hai questa storia, macro storia, anche se esile, della love story della bambina dei capelli rossi con Charlie Brown, che è un must per tutti coloro che l'hanno sempre seguita, anche quello è l'icona fin da Petrarca o Dante Alighieri della ricerca di un amore che non si compia mai, attraverso quello si aggregano attorno a questa storia d'amore tutte le gag più riuscite, alcune anche rivisitate delle strisce. Direte, forse il risultato è poco omogeneo? No, incredibilmente questo insieme di gag che diventa una storia ha una sua fluidità e alla fine, forse proprio perché non fa nessuno sforzo di staccarsi da Schultz, di renderlo moderno davvero, lo rende moderno e si avvicina anche per la sensibilità di chi ha già fatto Steve Martini, Ortone, il mondo del chi, l'era glaciale 4, si avvicina anche ai più piccoli dei giorni d'oggi. È la dimostrazione che se si fa con amore qualcosa si può anche portare un mito fuori dal suo mondo, cioè quello delle strisce, e che alcuni geni come Schultz sono eterni e sono sempre attuali e quindi possono veramente piacere a tutte le generazioni. Non ne rimarrete delusi, ve lo dice uno schultziano di ferro, quindi sono portato a dirvi di potervi fidare. È stata davvero la puntata degli uomini di ferro, il bondiano di ferro, lo schultziano di ferro. Abbiamo tutto di ferro qui. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana con il solito spazio a disposizione. Alla prossima settimana, buon cinema. E allora a questo punto noi sentiamo di nuovo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo, ci spostiamo in un ambito che sta a cavallo tra il cinema e il teatro, perché c'è molto cinema a teatro, fra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpure, la quarta e conclusiva parte del nostro programma. Vi ho detto, molto cinema nel teatro, ne parliamo fra un secondo. C'è anche molto Charlie Brown in una mostra, non l'ho detto prima, lo voglio dire adesso, perché a Milano fino al 10 gennaio, quindi avete tempo per andarla a vedere in occasione dell'uscita del film, allo spazio Wow, il Museo del Fumetto di Milano in Viale Campania, c'è una mostra molto bella sui Peanuts, si chiama Il Fantastico Mondo dei Peanuts, e potrete vedere veramente di tutto, disegni ovviamente, ma anche oggetti, cioè tutto quello che fa parte di questo mondo e che ha accompagnato la crescita e il successo di questi, di questa banda di ragazzini e animali vari Schulz. Dicevamo, molto cinema nel teatro, sì, perché ci siamo resi conto che sempre di più il teatro dal vivo, nelle tante sue espressioni, recepisce dal cinema. Facciamo il caso, per esempio, del musical Newsies, che è nato proprio da un film che si chiamava Gli Strilloni, era del 92, raccontava lo sciopero degli strilloni a New York nel 1899, una storia vera diventata prima un film nel 92 appunto e poi un musical in tempi più recenti, che ha fatto grande successo a Broadway, ha vinto Tony Awards e tutto, e adesso arriva in Italia al Teatro Nazionale di Milano in una edizione davvero straordinaria sotto il profilo delle scene, dei costumi, dei performers, delle coreografie, delle canzoni. È un musical tutto da scoprire, firmato da Alan Menken, quello della Bella e la Bestia per dirne uno, e quindi assicurata la parte melodica e canora. Lo vedrete a Milano per un po', fino al mese di gennaio, anzi fino alla fine di dicembre. Settimana prossima ne parliamo più approfonditamente, perché verrà a trovarci una parte del cast e lo studio qui sarà un po' più largo probabilmente per ospitarli. Detto questo, in questo frangente al Teatro Carcano di Milano Alessandro Gassman sta mettendo in scena fino al 15 novembre Qualcuno volò sul nido del cuculo, bellissima pièce, veramente drammatica, veramente intensa, con uno dei più grandi attori del movimento cinematografico e teatrale italiano di questo periodo. Fino al 15 novembre Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Carcano di Milano. E contemporaneamente ancora un grande personaggio che ha vissuto a cavallo fra teatro, canzone e cinema, Yves Montand, è il protagonista di una pièce che si intitola semplicemente Montand al Teatro Sala Fontana di Milano. A impersonare questo straordinario cantante attore di origini italiane che veramente ha fatto sognare generazioni è Gennaro Cannavacciuolo, che è in collegamento con noi. Ciao Gennaro, grazie buongiorno, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Come ti senti nei panni di Montana? Sono panni impegnativi, eh? Ma guarda, ci ho messo anni per arrivare a realizzare questo progetto. Ti dirò che ci vuole una grande dose di coraggio e di incoscienza che non mi manca. Senti, come si svolge lo spettacolo? Cioè, che cosa vedrà lo spettatore che vi viene a vedere? Ma guarda, la sua vita è stata talmente intensa che insomma, è stato abbastanza difficile mettere su carta e ridurlo in un'ora e mezzo di spettacolo. Ma sicuramente prevale il suo impegno politico, che è stato veramente molto molto importante, molto minuzioso, e la sua parte artistica, che ha avuto una vita artistica straordinaria, e l'unico, se pensi che è l'unico cantante di vaudeville che ha cantato al Metropolitan di New York, e poi è in evidenza naturalmente le sue donne più importanti, più famose, perché credo che sia forse Montand l'unico europeo che abbia avuto la gioia di stringere tra le braccia Marilyn Monroe. Assolutamente, ecco, tante le canzoni che si alterneranno nel tuo spettacolo, stiamo sentendo A Paris, ma come dimenticare Le foglie morte, Sessi Bon, insomma, ecco, c'è cioè, davvero Roma di Rose, e poi io farò anche delle canzoni che non sono molto conosciute in Italia, quelle del primo repertorio e dell'ultimo, ma che comunque sono delle canzoni straordinarie. Veramente è uno spettacolo di grande impatto emotivo. Questo allora ricordiamo le date, Gennaro, dal 12 al 15 novembre a Milano, Teatro Sala Fontana, ma poi se non sbaglio continuerete la tournée l'anno prossimo in Francia e a Roma. Cosa vai a fare in Francia? Vai a fare Montana in Francia? Guarda che lì sono esigenti. Sì, ma guarda che io canto in francese. Ma lo so, ma certo, ma ti sto prendendo in giro. Però sì, è una bella sfida, voglio dire, andare lì. Ma è una grande sfida, ma poi oltretutto alla prima di appunto di stasera, di sabato, ci sarà da Parigi sua moglie con suo figlio, quindi che vengono da Parigi ad assistere alla prima nazionale. Quindi Carola Miele e Valentin Livi. Esatto. Che tra l'altro, ricordiamo, il Montand si chiamava Ivo Livi. Di Bolivia era nato a Monsummano Terme, trasferito poi a Parigi e poi è diventato una grande star internazionale. Un pezzo d'Italia che si è affermato in Francia e nel mondo. Grazie a Gennaro Cannavacciuolo, grazie in bocca al lupo. Grazie per grandi emozioni, grazie, buon lavoro. Ciao, grazie, grazie. Ciao. Ciao. E allora passiamo al cinema da vedere in casa, lo facciamo come sempre cominciando con risolvere il game di 7 giorni fa. Sei divertente, hai un tempismo perfetto. Ma è divertente quanto te, Super Cooper. Ha un'altra missione compiuta. Viva la squadra! Viva la squadra! E allora, nella settimana di James Bond non potevamo che regalarvi Spy, che insomma, voglio dire, condivide un pezzettino, insomma, il racconto di un mondo di spie, di spionaggio, eccetera. Chiaramente qui in chiave totalmente ironica e comica, era Spy il film della settimana scorsa. Lo hanno indovinato per primi Roberto Lazzaroni di Colle Salvetti, provincia di Livorno, e Giulio Zarantonello di Alonte, provincia di Vicenza. Saranno loro a ricevere la copia di questo film che ci facciamo raccontare nell'edizione on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Melissa McCarthy, dopo Corpi d'Ariato e Le amiche della sposa, colpisce ancora insieme al sodale regista Paul Feig. Indossa i panni di una quarantenne cicciottella al servizio della CIA, costretta a scendere in campo. In questo modo rivolta ai canoni del genere spionistico e deride gli stereotipi di gender con intelligente allegria. Blu-ray d'ottima fattura, ricco di contenuti, sequenze di gag, scene tagliate, 15 scene alternative, featurette, making of e molto altro ancora. Allora Giulio, diamo un'occhiata anche ai palinsesti televisivi velocemente per dare un paio di consigli ai nostri ascoltatori sulla prossima settimana. Domenica 8 novembre sulla F alle 21.05 c'è Il ladro di orchidee di Spike Jonze. Sì, una fantasticheria lo-fi di Spike Jonze in cui uno sceneggiatore in conflitto con il proprio doppio deve adattare per il grande schermo un testo in apparenza infilmabile. Un doppio Nicolas Cage in questo film cervello scritto da Charlie Kaufman, che è sia sceneggiatore che personaggio. Un gioco di messa in crisi del processo di scrittura, una sorta di pirandello sotto acido e una commedia oscurissima. Altro appuntamento da non perdere in TV martedì 10 novembre su Iris alle 23.25, un film poco frequentato di Vincent Minnelli, Due settimane in un'altra città. Sì, l'altra città del titolo è Roma, l'Hollywood sul Tevere. Minnelli segue un attore americano sul viale del tramonto tra il set e i ricordi del passato. È un Minnelli autobiografico, leggiadro e acuto come sempre in un film sulla fabbrica dei sogni che non è più. La MGM rimane giù il tutto, ma il film resta una piccola perla, il seguito ideale di Il brutto e la bella, che del regista rimane uno dei capolavori. Grazie Giulio per averci raccontato come sempre come vanno le cose nei palinsesti TV e cosa scegliere per gli amanti del cinema. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della Rosa Purpurea, le note della nostra sigla ce lo ricordano, è stata una puntata intensissima che è volata in un battibaleno. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre non ci sarà James Bond e quindi avremo un po' più di spazio per gli altri film, saranno tanti anche la settimana prossima, perché qui su Radio 24 alla Rosa, come sempre, tutto il cinema che c'è.